notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Ci sarebbero due morti italiani in Nepal, ma al momento dalla Farnesina nessuna conferma. Oltre 3.600 le vittime sull'Everest, persone inghiottite dai ghiacci. La legge elettorale arriva in aula alla Camera. Renzi scrive ai deputati del PD: in ballo la nostra dignità. Salvini contestato dai centri sociali ad Ancona con lancio di uova e bottiglie. Il giorno dopo le violenze tra tifosi al derby di Torino, sospese le vendite dei biglietti di Samp Juventus, il presidente del Toro Cairo dice: dobbiamo abbassare i toni. Parleremo di tutto questo più avanti con il questore di Torino. Si tratta su Whirlpool, piano rivedibile, dice il ministro dello sviluppo Federica Guidi. Fuori dal ministero la protesta dei lavoratori di Caserta. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e poi durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura naturalmente gli aggiornamenti dal Nepal. Katia Caramelli, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, a te e agli ascoltatori. Si aggiorna purtroppo di ora in ora il bilancio delle vittime del fortissimo terremoto di sabato in Nepal. Al momento sono oltre 3.600 i morti e 6.800 i feriti, un numero che purtroppo potrebbe ancora crescere. Questo perché molti villaggi sono difficilmente raggiungibili, quindi mancano informazioni precise, e poi perché secondo testimoni ci sarebbe una serie di persone rimaste intrappolate tra i ghiacci sull'Everest. Nella capitale Kathmandu tanti gli sfollati, tanti che non hanno più una casa e difficilissime le comunicazioni. Abbiamo raggiunto questa mattina telefonicamente Barbara Monachesi dell'associazione Apeiron. Sentiamo. Ovviamente tanta paura, e ognuno si è nascosto sotto il tavolo, sotto lo stipite. Poi abbiamo aspettato che la scossa più forte, che comunque è durata proprio molto, finisse per scendere, solo che ci sono state tante altre scosse che si sono susseguite, alcune comunque abbastanza forti. Ci siamo raccolti con tutti i vicini in uno spazio libero, la parte vecchia è tutta distrutta, e sicuramente ci sono anche tante persone che non hanno più la casa, perché tutta la parte appunto più vecchia distrutta, e quindi è arrivata l'elettricità da un'ora. Prima non c'era, per cui non riuscivamo a caricare i cellulari, per cui veramente anche le comunicazioni sono diventate molto complicate. Vi dico che noi abbiamo cercato di monitorare tutti quelli dei nostri progetti e non siamo in contatto con tutto lo staff e i beneficiari di un paese che sembra essere stato molto colpito, e non sappiamo, ci hanno detto che probabilmente è stato raso al suolo, ma lì non si sa nulla. Le dico solo che da Kathmandu per arrivarci ci vogliono 10 ore di auto e 16 ore di cammino. Una situazione davvero quindi molto complicata, resa ancora più difficile per quanto riguarda i soccorsi dal maltempo. Quanto agli italiani coinvolti, ci sarebbero due vittime accertate, anche se la Farnesina al momento non conferma ufficialmente. Secondo testimoni sarebbero infatti stati rintracciati i corpi senza vita di Renzo B e Marco P, morti sotto una frana durante una spedizione, ed in ospedale nella capitale ci sarebbero due compagni della spedizione che non sarebbero però in gravi condizioni. Nessuna notizia ancora invece dei quattro speleologi che si trovavano in uno dei villaggi travolti, mentre è rientrato l'allarme per un 24enne giovane scalatore veronese. Poco fa il giovane si è infatti messo in contatto con i familiari. Cinque gli italiani che hanno trovato rifugio invece nel laboratorio Piramide dell'associazione VK2CNR, a 5.000 metri di quota sul versante nepalese dell'Everest. Questa la testimonianza di uno di loro, l'alpinista Mario Vielmo. Stiamo bene, per nostra fortuna ci è andata veramente bene, siamo stati graziati. Lo posso dire perché abbiamo visto veramente la morte in faccia. La maggior parte dei feriti, quelli più gravi, sono già stati portati giù in elicottero al Periche e all'Ucla, e stamattina abbiamo visto altri elicotteri volare, quindi presumiamo insomma che la situazione sia migliorata. Solo che il posto, il campo base, attualmente è ancora insicuro, perché Ci sono delle scariche continue valanghe che scendono dalle montagne proprio sovrastanti, parliamo del Nupse, del Pumori, del Dintren e tutti i 7000 che fanno da satellite il campo base. Ecco. Quello che ci hanno detto i nostri Sherpa, avevamo due Sherpa che stavano proprio scendendo quella mattina e di aver visto all'improvviso l'icefall muoversi, come se lì si è mosso tutto a causa di questa scossa del terremoto, e di aver visto alcuni alpinisti essere inghiottiti dentro queste voragini che si sono formate a causa del crollo di una parte dell'icefall. Il problema grosso era il campo base, perché veramente c'era un fuggi e persone ferite, gente purtroppo morta. Tutti i soccorsi e le attenzioni sono rivolte lì. Noi ci siamo spostati al campo base in quanto io, facendo una valutazione, ritengo che sia molto molto pericoloso, perché abbiamo sentito valanghe anche stamattina venire giù proprio nella direzione del campo base, per cui attualmente non è un posto sicuro. Questo è il tema principale di questa giornata. Naturalmente proveremo a tornarci nel corso di Effetto Giorno, anche se, come avete sentito, le comunicazioni con il luogo sono piuttosto complesse. Passiamo alla politica, che è in primo piano perché oggi arriva in aula la legge elettorale, tema di scontro soprattutto interno al Partito Democratico. Ai parlamentari del Partito Democratico Renzi ha scritto questa mattina. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. È così l'aula della Camera, e partiamo dalla tempistica impegnata da questa mattina nella discussione generale su un testo, quello dell'Italicum, di 4 articoli, che, lo ricordiamo, è quello approvato dal Senato a metà marzo, ma l'attesa è tutta per domani, quando saranno sottoposte al voto dell'Assemblea di Montecitorio le pregiudiziali di costituzionalità e di merito. Forza Italia chiederà lo scrutinio segreto sulle pregiudiziali e il governo potrebbe decidere di blindare le votazioni con la questione di fiducia. Se le pregiudiziali verranno respinte, tutto si fermerà fino alla prossima settimana, ai primi di maggio. Lo slittamento al calendario del mese successivo consentirebbe il contingentamento dei tempi con meno rischi da parte del governo. Il dibattito politico di queste ore si concentra allora non tanto sui contenuti del testo, ma se il governo porrà o meno la fiducia già nelle votazioni di domani. Una soluzione inammissibile che svilisce il Parlamento, secondo le opposizioni, ma anche per la minoranza del PD, con la Bindi che parla di pericolo per la democrazia. Al suo partito si rivolge allora questa mattina proprio il Presidente del Consiglio Renzi: se questa legge elettorale non passa, è l'idea stessa di Partito Democratico come motore del cambiamento dell'Italia che viene meno, spiega il Premier, che aggiunge: nel voto di queste ore c'è in ballo la legge elettorale, certo, ma anche e soprattutto la dignità del nostro partito. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Questa mattina lancio di uova, pomodori e bottiglie, così il leader della Lega Matteo Salvini è stato accolto in piazza Roma d'Ancona da manifestanti dei centri sociali, che hanno acceso anche un fumogeno arancione. Il leader leghista si è fermato al banchetto della Lega per la raccolta di firme per la presentazione delle liste per le regionali. Dall'altra parte del cordone di sicurezza le urla dei manifestanti: vattene, vergogna, fascisti. Salvini ha detto: pensare che questa gente qui magari il 25 aprile stava a parlare di libertà e democrazia. Al Quirinale oggi la consegna dei premi Leonardo. Il Presidente della Repubblica ha parlato di lavoro, di corruzione, di Expo. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. È così: invertire la rotta sul lavoro, mettere in moto tutte le energie per innovare il Paese, questa è la sfida che abbiamo davanti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, lanciando un appello alla politica, ai cittadini, alla società civile, agli imprenditori, a tutte quelle componenti che possono contribuire alla crescita economica. Tutti devono fare la propria parte, lo deve fare la pubblica amministrazione con più trasparenza, semplicità negli adempimenti, la politica colpendo la corruzione, contrastando l'illegalità, combattendo senza riserve le mafie, lo devono fare le imprese valorizzando il lavoro e la creatività. Ma sentiamo un passaggio di Mattarella. Troppi posti di lavoro e tanta capacità produttiva sono andati perduti in questi anni. Invertire la rotta è il compito che abbiamo davanti. Aver saputo tenere testa alla congiuntura così difficile di carattere finanziario internazionale negli anni che sono alle nostre spalle è stata opera di grande merito. Va adesso completata l'azione, con la prosecuzione di sulla strada di riforme necessarie e di iniziative per la crescita concertate a livello dell'Unione Europea. Mattarella ha parlato durante la consegna dei premi Leonardo, riconoscimenti conferiti ogni anno alle imprese che si sono distinte in creatività, innovazione e saper fare italiano. Il premio quest'anno è stato conferito a Nerio Alessandri, presidente di Tecnogym, imprenditore che attraverso le sue macchine per il fitness ha contribuito a diffondere l'immagine dell'Italia nel mondo. Il premio Leonardo Startup invece a una giovane azienda di successo Ennova che ha sviluppato un innovativo modello di assistenza remota per il settore delle telecomunicazioni. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Veniamo alle cronache dalla Grecia. Pochi istanti fa le agenzie parlano di fonti di Atene che confermano la fiducia al ministro dell'economia Varoufakis, e questa rischia di essere l'ennesima settimana decisiva, come direbbe il mio collega Alessandro Milan, per le sorti del paese. Vittorio Darold, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che cosa dobbiamo attenderci? Ma effettivamente dopo l'incontro fallimentare dell'Eurogruppo di Riga, dove appunto c'è stato questo scontro con i 18 ministri delle finanze contro il ministro greco Varoufakis, sembra che ci sia stata una telefonata tra il premier Tsipras e il cancelliere tedesco Angela Merkel per cercare di rimettere sul giusto binario questa difficile mediazione. Ci sono ancora dei problemi, le pensioni, il taglio delle pensioni, l'aumento dell'IVA, i contratti di lavoro e le privatizzazioni. Questi sono gli scogli. Scogli che non sono insormontabili, ma che pongono il governo greco nella condizione di dover cedere qualcosa nei confronti di quanto aveva promesso in campagna elettorale, ed è proprio questo la difficile mediazione che è chiamato a trovare appunto il premier greco Tsipras con il cancelliere tedesco in vista di un possibile incontro mercoledì tra il gruppo di Bruxelles, così come viene chiamato oggi la Troica, quindi rappresentanza dei creditori internazionali, e il governo greco. Vittorio, prima di chiudere la tua corrispondenza e il tuo racconto, vorrei capire quali sono le promesse che potrebbero saltare per prime, per così dire, perché se non sbaglio questa mattina circolava voce che già il reddito minimo fosse ampiamente in bilico. Sì, esattamente. Le privatizzazioni potrebbero essere, diciamo, il primo elemento su cui il governo Tsipras potrebbe cedere e dirottare quello che naturalmente in una prima versione gli introiti delle privatizzazioni dovevano andare a ridurre il debito che Atene ha con i creditori. Invece ci potrebbe essere una sorta di 50-50, una sorta di cercare di mediare i ricavi delle privatizzazioni e concederne alcune per aumentare le pensioni minime, ridare la tredicesima mensilità alle pensioni minime e il resto per ridurre il debito. L'altro problema grave è appunto quello del taglio delle pensioni, che erano rimaste ancora in situazioni che non erano state aggiornate. Su questo invece c'è uno scontro molto più forte, come pure sul salario minimo, che anche questo è un altro elemento su cui c'è ancora scontro. Grazie a Vittorio Darold del Sole 24 Ore per questi aggiornamenti. Abbiamo sentito poco fa il Presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della consegna dei premi Leonardo ha parlato di lavoro, e proprio di lavoro che parliamo adesso, con l'avvertenza su Whirlpool dopo l'annuncio dei giorni scorsi da parte dell'azienda di un piano di esuberi massiccio. Oggi un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, tra l'altro con gli operai sotto il Ministero. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno. Nonostante una leggera pioggia che è iniziata a cadere su Roma, è andato avanti questo sit-in dei lavoratori della ex Indesit di Carinaro sotto il Ministero dello Sviluppo Economico. Dalla provincia di Caserta sono arrivati in 300 per dire no alla chiusura del loro stabilimento prevista dal piano industriale presentato dal gruppo statunitense Whirlpool, che ha acquisito la Indesit. È stata una protesta pacifica fatta sostanzialmente di cori e fischi. La zona è stata comunque presidiata dalle forze dell'ordine. Al Ministero si è da poco concluso, dopo circa 2 ore, il tavolo fra governo, sindacati e azienda. Li stiamo aspettando per i primi commenti. Da quanto sappiamo, i sindacati, ce l'hanno detto anche entrando, hanno ribadito il loro no alla chiusura di Carinaro, dove al momento, lo ricordiamo, sono impiegati oltre 850 addetti. Dalla Whirlpool sarebbero arrivate delle timide aperture per rivedere in parte il piano industriale, aperture che comunque non avrebbero soddisfatto i sindacati. Il ministro Guidi, dal canto suo, ha ribadito invece che la priorità del governo è quella di dare un lavoro sicuro a tutto il gruppo, a partire dai 1350 dipendenti che sono a rischio in tutta Italia. Le parti hanno fissato un nuovo calendario di incontri, il confronto dunque andrà avanti, Simone. E grazie al nostro Andrea Viali. Abbiamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca. Tra un attimo sentiremo il questore di Torino, Salvatore Longo, per parlare di quello che è successo ieri, durante e prima del derby e dopo anche il derby tra Juventus e Torino, e poi ci occuperemo della nuova udienza davanti al GUP per Massimo Giuseppe Bossetti, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio, dopo il traffico. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Oltre 3.600 le vittime del terremoto in Nepal, sull'Everest persone inghiottite dai ghiacci. Ci sarebbero 2 morti italiani, ma al momento dalla Farnesina nessuna conferma. La legge elettorale arriva in aula alla Camera. Renzi scrive ai deputati del PD: in ballo la nostra dignità. Salvini contestato dai centri sociali ad Ancona con lancio di uova e bottiglie. La magistratura uccide, così ha scritto un pediatra genovese prima di togliersi la vita gettandosi dal ponte monumentale, notizia di pochi istanti fa. Il figlio, farmacista, è stato arrestato per un giro di farmaci antitumorali dalla procura di Monza. Il giorno dopo le violenze tra tifosi al derby di Torino, sospese le vendite dei biglietti di Samp Juventus, il presidente del Toro Cairo dice: dobbiamo abbassare i toni. Ed è proprio da qua che ripartiamo con Salvatore Longo, questore di Torino. Buongiorno, benvenuto e grazie per aver accolto il nostro invito, questore. Buongiorno, grazie a voi. Allora, ovviamente parliamo, lo ribadiamo agli ascoltatori, di quello che è successo ieri prima, durante e dopo il derby tra Juventus e Torino, tra cui abbiamo visto la sassaiola contro il pullman della Juventus con un vetro rotto, la bomba carta all'interno dello stadio che ha provocato dei feriti, ulteriori scontri dopo. Questore, quello che le voglio chiedere è se si sente di dire che abbiate sottovalutato qualcosa di quello che poteva succedere ieri. No, direi che non è stato sottovalutato assolutamente nulla. Il tipo di servizio era uno servizio molto delicato, perché il derby in quanto tale è sempre considerato un incontro a rischio. Le forze messe in campo sono state forse numericamente superiori a quelle che ordinariamente si adoperano in queste circostanze, sia come forze di polizia sia come steward. Proprio nel settore dove si sono verificati gli episodi più gravi, gli steward erano stati raddoppiati, così come rafforzato il servizio di filtraggio. Tra l'altro i servizi sono cominciati molto prima. Ecco, questore, le posso chiedere una cosa proprio a proposito dei servizi di filtraggio. Molti si chiedono: ma com'è possibile che una bomba carta entri all'interno dello stadio? Guardi, su questo è noi stiamo cercando di rivedere tutti i filmati, di analizzare punto per punto. Naturalmente è chiaro che il filtraggio non è stato fatto su tutte le persone che entravano nei settori, almeno questo mi sento di dire in questo momento. Naturalmente ci riserviamo di vedere se ci sono state delle altre evenienze Io in questo momento non le posso dire esattamente cosa sia avvenuto evidentemente. Sicuramente il fatto di avere raddoppiato i servizi di steward, i servizi di presenza dei forze di polizia, significa che non è stato sottovalutato nulla. Tant'è vero che gli scontri che si stavano verificando prima dell'incontro, e ben prima dell'incontro, perché stavano alle 11 del mattino, sono stati smorzati proprio dall'intervento delle forze di polizia e tra l'altro con degli arresti, così come arresti ci sono stati nella immediatezza del lancio dei petardi e della bomba carta, perché in quella circostanza sono state arrestate 3 persone. Sì, tra l'altro avete arrestato un'altra persona oggi, se non sbaglio. Guardi, gli arresti sono stati 5 in tutto e complessivamente con i denunciati saliamo a 15 persone. Nei confronti di tutti questi sono già li sto firmando in questo momento i DASPO e naturalmente stiamo continuando, perché abbiamo già identificato altri che sono stati autori dell'assalto al pullman della Juventus, che anche quello, ricordo, era scortato da forze di polizia, e che grazie a questo non è stato bloccato e ha potuto continuare la sua strada verso lo stadio. Certo, lei dice appunto sottovalutato, non è stato sottovalutato, poi il problema è che ci sono degli idioti che si comportano in questo modo, diciamo così. No, non è questo, significa anche che dobbiamo rivedere tutte le situazioni particolari che si sono verificate ieri e cercare di comprendere come questo ordigno è entrato allo stadio. Senta questore, secondo lei, a suo giudizio, insomma, che poi lei che lavora operativamente, immagino insieme al prefetto su queste cose, c'è un modo perché questo non avvenga mai? Cioè c'è un modo per prevenire in maniera completa tutto questo, o è inevitabile che in qualche caso episodi di questo genere avvengano? Ma guardi, se a fronte del dispiegamento che è stato attuato ieri, l'episodio si è verificato, io non mi sento di dire che non si possa verificare. È chiaro che se si procede ad una perquisizione meticolosa persona per persona, considerato poi tra l'altro che viene effettuata una bonifica di tutto lo stadio prima di consentire l'ingresso dei tifosi, direi che questo è impossibile che si verifichi. La ringrazio, grazie a Salvatore Longo, questore di Torino, per essere stato con noi. La ringrazio per aver accettato l'invito, e su questo tema naturalmente torneremo, ovviamente si ritornerà su questo in tutti i convocati a partire dalle 14, vedremo che cosa succederà anche sul fronte degli arresti. Marco De Ponte di ActionAid si trova a Nuova Delhi, ma è in contatto costante con degli operatori che si trovano in Nepal. Come vi abbiamo detto, anche raggiungerli telefonicamente è piuttosto complicato. La saluto, De Ponte, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, quali sono le ultime da là? Immagino lei abbia sentito delle persone, le senta costantemente, vorrei sapere quale quadro le hanno dipinto. Guardi, il quadro rimane molto complicato anche per i problemi che avete accennato voi di collegamento. Non è tanto che le linee non funzionino, quanto piuttosto il fatto che ci sono problemi con la rete di energia elettrica, quindi molto banalmente si scaricano i cellulari e cose di questo genere, bisognerebbe, poi si fa fatica, insomma. Quindi anche le comunicazioni sono frammentate. Noi però stiamo dicendo un po' a tutti che in realtà è anche artificiale aspettarsi, come dire, degli aggiornamenti minuto per minuto. Il lavoro che c'è da fare è molto complicato in Nepal, perché è il Nepal, tutti vedono che cosa è successo a Kathmandu e tutti al giorno d'oggi si aspettano l'immagine in diretta. Però la realtà è che è un paese con valli e montagne molto alte, con villaggi molto remoti che normalmente si raggiungono con difficoltà in auto, in moto, se non addirittura addosso di mulo. Quindi Io dico un po' a tutti in questo momento, quello che ci dicono i colleghi, che fare una mappatura esatta di quello che è successo, non solo la conta dei morti, ma di quelli che sono in danni, sarà una questione di giorni se non di settimane. Del resto vorrei ricordare agli ascoltatori De Ponte che ci abbiamo messo giorni se non settimane ad accorgerci delle devastazioni, per così dire, periferiche, che fecero tanto il terremoto in Umbria quanto quello in Abruzzo, e quindi posso solo immaginare come sia in Nepal. Prego. Bravissimo, è proprio così. Però qua forse viene anche l'altra cosa da dire, che quindi nonostante certamente bisogna portare soccorso a chi è raggiungibile, ed è sicuramente una priorità, il lavoro di organizzazioni come la nostra e come le altre, diciamo, che sono presenti e che sono unite nel network di Agire, è quello di fare una mappatura nelle zone più remote, perché in realtà questo è il nostro vantaggio. Siamo presenti da oltre 20 anni, abbiamo noi di ActionAid una rete di circa 2000 persone che regolarmente lavora nei villaggi più remoti. Queste 2000 persone sono volontarie, sono coordinate dal nostro staff. Quindi noi riteniamo che questo sia un lavoro anche più fondamentale di quello che si vede subito all'inizio. Poi diciamo che il fatto che ci sia anche la possibilità, come dire, di tenere l'attenzione internazionale alta aiuta, quindi io ringrazio tutti quelli che ci chiedono gli aggiornamenti minuto per minuto, non ci mancherebbe altro, aiuta, perché ci sarà bisogno di risorse e ci sarà bisogno di non dimenticarsi di quelli che stanno nell'ultima valle in alto a sinistra, sono importanti come quelli che stanno vicino alla città, ma insomma bisogna anche avere pazienza di fare bene i conti, anche per non mettere poi le energie e le risorse nei posti sbagliati, che sarà come dire la seconda sfida, insomma. La ringrazio, grazie a Marco De Ponte, direttore di ActionAid a Delhi, e proprio per non dimenticare, magari torneremo a chiamarla nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, cercheremo di sentire altre associazioni che lavorano sul territorio, come è evidente, per capire che cosa succede, oltre a dover comprendere nelle prossime ore qual è stata la sorte degli italiani, dei quali al momento non ci sono tracce. Cambiamo decisamente argomento. Maurizio Caprino del Sole 24 Ore in studio con me. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vogliamo parlare con te di omicidio stradale, perché oggi qualche giornale dice è sparita l'ipotesi del ritiro di patente a vita dal disegno di legge sull'omicidio stradale. Che cosa ci dici tu, che ne capisci? Ma diciamo intanto non è proprio così, perché intanto ce n'è un'altra che è la riforma del codice della strada, che è una cosa che va parallela e continua a prevedere l'ergastolo della patente, che tra l'altro c'è già per i recidivi dal 2010, quindi questo non dimentichiamolo. Seconda cosa, non è una retromarcia come dice qualche titolo di giornale, ma è la necessità di valutare la costituzionalità, e la costituzionalità va valutata prima che entri in vigore una legge, altrimenti cosa succede? Che il primo giudice a cui viene il dubbio rimette la questione alla Corte Costituzionale, e quindi anche se noi facciamo una legge, poi la Corte Costituzionale la butta a mare dopo un anno, creando oltretutto problemi di posizioni pendenti, di processi in corso, eccetera eccetera. Terzo problema, siamo proprio sicuri che l'ergastolo della patente serva, nel senso che gli articoli, il caso che è stato citato oggi per dare l'allarme, il caso di una persona che molto probabilmente avrebbe guidato bellamente anche senza patente, quindi poi inasprire eccessivamente il sistema, perché molti dei problemi arrivano da gente che guida proprio senza patente. Sì, perché non ha nulla da perdere. Quante volte noi nelle cronache citiamo casi di gente che appunto falcia persone e si scopre che la patente gli era già stata tolta, quindi questi circolano lo stesso. Fino a quando non avremo, ma qui è un problema di Europa, dei dispositivi di bordo obbligatori che subordinano l'avviamento del motore al riconoscimento del conducente e della relativa patente di guida, beh, questo ovviamente non potrà essere risolto. Grazie a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire le borse e poi subito dopo parleremo di Expo. Come sapete, mancano 5 giorni, parleremo della presentazione di oggi del padiglione turco, e poi parleremo di una vicenda di un varco all'Expo dal quale entravano lavoratori in nero. Chiederemo lumi su tutto questo all'Ispettorato del Lavoro di Milano. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ci sarebbero due morti italiani in Nepal, ma al momento dalla Farnesina nessuna conferma, oltre 3.600 le vittime. La legge elettorale arriva in aula alla Camera, Renzi scrive ai deputati del PD: in ballo la nostra dignità. Il giorno dopo le violenze tra tifosi al derby di Torino, sospesa la vendita dei biglietti di Samp Juventus. Si tratta su Whirlpool, piano rivedibile, dice il ministro dello sviluppo Federica Guidi. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Prima di tutto una notizia appena battuta dalle agenzie, abbiamo parlato prima, come avete sentito, col questore di Torino. Intanto dalla procura invece emerge la notizia che la bomba a carta che ha ferito 10 persone allo Stadio Olimpico di Torino non sia stata lanciata dai tifosi della Juve, ma sia stata confezionata sul posto dagli stessi tifosi torinisti rimasti feriti. L'ipotesi emerge dai filmati visionati dalla polizia. La relazione è stata consegnata al PM Andrea Padalino, che ha aperto un'inchiesta. Aniello Pisanti, direttore dell'Ispettorato del Lavoro della provincia di Milano, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a lei. Abbiamo visto oggi con un certo stupore, devo dire la verità, questo articolo pubblicato dal Corriere della Sera che si intitola Il varco abusivo dell'Expo. Immagino lo abbia visto anche lei, ossia un punto nel quale entrano sostanzialmente dei lavoratori che vanno a lavorare in questo che è sostanzialmente il più grande cantiere d'Italia al momento, vanno a lavorare in nero. Mi spiega com'è possibile? Devo dire, ho letto anche l'articolo e ne sono rimasto assolutamente sorpreso. Come sia possibile, ovviamente non lo so. So soltanto che quel cantiere è attenzionato dal nostro ufficio, dalle altre forze dell'ordine, dagli altri organismi di controllo da tempo, da quando sono iniziati i lavori. Pertanto ciascuno di questi organismi di controllo svolge la propria parte, ciascuno per proprio conto, sotto il coordinamento di protocolli d'intesa che abbiamo sottoscritto e stipulato tra appunto organismi di controllo, e stupisce anche me il fatto che ci possa essere la possibilità di accedere in maniera non lecita al cantiere. Mi scusi, quanti Pisanti, le chiedo quanti uomini vostri e se sa anche quanti uomini degli altri enti che sono preposti al controllo di tutto questo sono impiegati nel lavoro di controllo? Non conosco ovviamente i numeri relativi agli altri enti e alle altre istituzioni. Per quanto riguarda i nostri non posso fornirle una risposta certa, perché si tratta di dati riservati all'amministrazione e per i quali non posso fornire dei numeri precisi. Posso però dirle che stiamo effettuando controlli da quando, ma gliel'ho già detto, glielo ribadisco, il cantiere è divenuto operativo, e ciascuno per la propria parte, avvicendandoci con gli altri organismi di controllo, penso anche all'ATL per quanto riguarda la parte della sicurezza, e stiamo sostanzialmente... E all'INPS, mi scusi, all'INPS immagino per la parte contributiva, più puramente contributiva immagino. Certamente, certo. Come Ministero del Lavoro svolgiamo attività di coordinamento nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, quindi loro hanno partecipato con noi autonomamente, sia pur coordinati a quel tipo di controlli. No, volevo evidenziare che comunque un effetto benefico di questo sistema organizzato di controlli c'è stato, perché vado a memoria, ma nel cantiere di Expo non si sono verificati ad oggi, qui incrociamo tutte le dita e facciamo i debiti scongiuri del caso, infortuni sul lavoro gravi. Quindi segnale che effettivamente un'attività di controllo positiva con esiti di questo tipo c'è stata. Sì. Ammesso che Pisanti a questo punto non ci siano stati e non siano emersi proprio perché erano lavoratori in nero e magari le aziende che li facevano lavorare in nero non li hanno voluti far emergere. Comunque questa è una cosa che non sappiamo e siamo ovviamente nell'ambito delle ipotesi. Le chiedo ancora e ritorno alla domanda iniziale. Allora, con tutti questi controlli, con i protocolli attivati, come può avvenire una cosa di questo genere? Io gli do la stessa risposta di prima, me lo sono chiesto anch'io. È chiaro che se una falla nel sistema c'è stata, e questa è, lo è evidentemente una falla, e noi dobbiamo correre ai ripari nell'immediatezza. Non possiamo riuscire a prevedere in un luogo così grande come l'ha definito lei qualsiasi opportunità di invasione, di penetrazione abusiva all'interno dello stesso. State indagando e scatteranno delle sanzioni? Stiamo assolutamente indagando, ci siamo già attivati da questo punto di vista. Se scatteranno delle sanzioni glielo saprò dire quando i controlli saranno terminati. La ringrazio, grazie Aniello Pisanti, direttore dell'Ispettorato del Lavoro della provincia di Milano, e saluto la nostra Anna Marino, perché rimaniamo sui temi di Expo. Questa mattina c'è stata la presentazione del padiglione turco, una presentazione avvenuta in centro a Milano. Segno Anna forse che il padiglione non è ancora pronto? Ma il padiglione si dice sia pronto per ospitare i visitatori. In 3 mesi è stato realizzato un padiglione di 4.170 metri quadrati, 800 dedicati alle aree verdi con platani sotto i quali tradizione bene il tè turco, e comunque ci sono 40 alberi di melograno che è il simbolo, e in ogni caso hanno detto senza badare a spese, per questo l'importante è che sia pronto. Però anche toccati. Ecco Anna, io su questo ti volevo, perché in realtà essendo la presentazione del padiglione turco si è toccato anche il tema dell'Armenia e del genocidio armeno. Certo, in questa occasione si sono toccati anche temi di attualità, a partire dalle tensioni, come si sa, con il Vaticano, dopo le parole di Papa Bergoglio, che ha definito il massacro degli armeni del 25 il primo genocidio del XX secolo. Lo ricordiamo, la Turchia non riconosce il genocidio, ha richiamato il proprio ambasciatore presso la Santa Sede. Poco fa il vice ministro dell'economia della Repubblica Turca, Adan Yildirim, presente qui alla presentazione, ha teso invece la mano al Vaticano con una premessa. Ha detto: il Santo Padre ha detto parole che la Turchia non si aspettava assolutamente, forse neanche il Vaticano. La Turchia è sempre stata a disposizione di tutti gli storici del mondo, aprendo i suoi archivi internazionali militari. Pensiamo che tutte le relazioni, ha detto, torneranno come prima. Siamo contro, ha detto e sottolineato, tutti i genocidi al mondo. E poi il vice ministro ha lanciato un invito: saremo lieti di dare il benvenuto anche al Santo Padre se volesse visitare il padiglione della Turchia Expo, e se non potesse venire lui personalmente saremmo lieti di ospitare una delegazione del Vaticano perché possa apprezzare tutti i valori della civiltà storica della Turchia. Quindi un segno di distensione. E anche sull'Europa ha aggiunto che l'obiettivo sono gli standard europei, non certo l'integrazione, su cui comunque si lavora. E grazie. Per ora è tutto, Simone. Grazie ad Anna Marino. Allora, il GUP di Bergamo, Iacomino, deciderà intorno alle 14.15 sulla richiesta di rinvio a giudizio di Massimo Bossetti per l'omicidio di Yara Gambirasio. Il servizio. Si è tenuta nel blindatissimo secondo piano del Tribunale di Bergamo l'udienza preliminare a carico di Massimo Bossetti, il carpentiere di 44 anni arrestato il 16 giugno scorso per l'omicidio di Yara Gambirasio. Bossetti è arrivato verso le 8.30 ed è passato da un ingresso secondario per evitare l'assalto della stampa. Assenti il padre e la madre della 13enne uccisa il 26 novembre del 2010, che si costituiranno parte civile insieme alla sorella di Yara, ormai maggiorenne. Ha deciso invece di partecipare all'udienza Massimo Maggioni, l'ex collega su cui Bossetti tentò di scaricare le responsabilità, ragione per cui dovrà anche difendersi dall'accusa di calunnia. I difensori del muratore, gli avvocati Salvagni e Camporini, hanno chiesto intanto la nullità del capo di imputazione in quanto presenta un doppio luogo di commissione del delitto, Brembate di Sopra e Chignolo d'Isola. E poi hanno chiesto la nullità o l'inutilizzabilità degli accertamenti biologici compiuti dal RIS in quanto esperiti con lo strumento della delega d'indagine e non con l'avviso delle parti. Il GUP di Bergamo, Ciro Iacomino, si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulle eccezioni. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Traffico.